Noi abbiamo dovuto superare un periodo, soprattutto all'inizio di questa crisi, quindi nel secondo semestre del 2008, dove francamente per l'imprenditore il rapporto con la propria banca, di dimensioni piccole, medie o grande che sia, è stato un rapporto molto difficile e problematico. La risposta che il sistema bancario italiano, devo dire anche il governo, ma soprattutto le rappresentanze di impresa hanno dato, secondo me, è stato in quel momento lì una risposta importante, che è riuscita a, come si dice a Napoli, far passare la nottata. Facemmo un'indagine nel settembre di quell'anno attraverso l'Eurispo di Mannheimer e chiedemmo ai nostri associati quale era il problema più sentito in quel momento. Al primo posto ci stava l'accesso al credito. A distanza di un anno, di fronte alla stessa domanda, l'imprenditore non mette al primo posto le difficoltà di accesso al credito, ma si scala di posizioni.